Il terzo anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Le Memorie di Barry Lyndon, di William Thackeray, traduzione di Tommaso Giartosio. Da qualche tempo ero in trattative con un tale per una certa somma di cui avevo urgente bisogno. Ma da quando avevamo litigato riguardo alla faccenda della successione, Milady si rifiutava categoricamente di firmare qualsiasi documento in mio favore. E senza il suo nome, e mi dispiace dirlo, il mio, valeva ben poco sul mercato. Non ero in grado di ottenere una sola guinea da tutti i banchieri e gli usurai di Londra e Dublino. Tantomeno mi riusciva di convincere quei maledetti dublinesi a venire a trovarmi a Castle Lyndon per via di quella malaugurata storia con l'avvocato Sharp, da cui mi ero fatto prestare il denaro che aveva portato con sé, e anche per la faccenda del vecchio ebreo Solomons, a cui avevo dato un impegno di pagamento che gli venne rubato proprio mentre se ne andava da casa mia. La gente ormai non si fidava più di varcare la mia soglia. Intanto anche le nostre rendite erano in mano ai curatori fallimentari e riuscivo a malapena a ottenere da quei furfanti abbastanza denaro da pagare i conti dei miei mercanti di vino. Le nostre proprietà in Inghilterra, come ho già detto, erano anch'esse vincolate e ogni volta che mi rivolgevo ai miei legali e amministratori per avere denaro, mi rispondevano chiedendomi a loro volta del denaro per debiti e pretesi diritti che quegli avidi farabutti dicevano di avere in sospeso. Fu con un certo piacere, dunque, che ricevetti una lettera dal mio uomo di fiducia presso il Grace Inn a Londra. Diceva, in risposta a una mia 99esima richiesta, che pensava di potermi procurare del denaro, e accludeva una lettera di una stimata ditta della City che si interessava di affari minerari. Si offrivano di sollevarci dalle nostre difficoltà, prendendo in affitto a lungo termine una nostra proprietà che era ancora abbastanza libera da vincoli, purché ci fosse la firma della contessa e loro avessero la garanzia che aveva firmato di sua spontanea volontà. Dicevano di aver sentito dire che viveva nel terrore di venire uccisa da me e che meditava una separazione, nel qual caso avrebbe potuto rifiutarsi di riconoscere qualsiasi atto da lei firmato durante la sua prigionia o comunque costringerli a una controversia costosa e di esito dubbio. Perciò, prima di pagare un solo scellino del capitale stabilito, chiedevano che si provasse loro che sua signoria si impegnava nella transazione con perfetta libertà di volere. Le condizioni che pretendevano erano così esorbitanti che capii subito che l'offerta doveva essere sincera. E dato che Milady in quel periodo era, bontà sua, di buon umore, non ebbi difficoltà a convincerla a scrivere una lettera di suo pugno, dichiarando che tutte le storie sui nostri dissapori erano pure calunnie, che vivevamo in perfetta concordia e che lei era prontissima a firmare qualsiasi atto legale che suo marito volesse metterle davanti. Questa proposta arrivava proprio nel momento giusto e mi riempì di grandi speranze. Non sono stato a tormentare i miei lettori con troppi resoconti dei miei debiti e delle mie manovre legali, ormai tanto vaste e intricate che io stesso non ero mai arrivato a ritrovarmici del tutto, e intanto ero diventato mezzo pazzo per il loro incalzare. Basti dire questo, che il mio denaro se n'era tutto andato e il mio credito idem. Me ne stavo a Castle Lyndon, vivevo del mio manzo e del mio montone e di pane, torba e patate delle mie terre. In casa dovevo tener d'occhio Lady Lyndon, fuori casa dovevo tener gli occhi aperti per via degli ufficiali giudiziari. Negli ultimi 2 anni, da quella volta che ero andato a Dublino a riscuotere del denaro e sfortunatamente l'avevo subito perso al gioco con grande disappunto dei miei creditori, non mi ero più azzardato a farmi vedere nella capitale. ma anche nel capoluogo della contea potevo fare al massimo qualche rara apparizione, e solo perché conoscevo gli sceriffi e avevo pubblicamente giurato di ammazzarli se mi capitava qualcosa di male. La possibilità di un buon anticipo in denaro era dunque il meglio che mi si potesse prospettare, e ci si immagini con quanto entusiasmo io l'accolsi. A tempo debito, in risposta alla lettera di Lady Lyndon, mi arrivò una di quei maledetti commercianti di Londra. Dicevano che, se sua signoria avesse confermato a viva voce, presso i loro uffici di Birkin Lane a Londra, quanto aveva scritto loro, avendo già fatto una stima della sua proprietà, avrebbero senz'altro concluso l'affare, ma rifiutavano di esporsi a rischi con un incontro d'affari a Castle Lyndon, essendo a conoscenza del trattamento che gli avevano ricevuti altri stimati colleghi come i signori Sharp e Salomon di Dublino. Beh, questo fu un duro colpo per me. Ma esistono situazioni in cui uno non può dettare le sue condizioni, e poi diamine. Ormai quel denaro mi serviva. Decisi di andare a Londra, portando con me la contessa. Invano mia madre mi implorò di non partire. Invano mi mise in guardia. Sta pur certo, disse, che c'è sotto qualche tranello. Una volta entrato in quella città di malfattori, non ci sarà più nulla a proteggerti. Qui puoi vivere per anni e anni nel lusso e nello splendore, anche se manca il chiaretto e le finestre sono tutte rotte. Ma non appena ti avranno lì a Londra, faranno quello che vogliono del mio povero ragazzo innocente. E la prima cosa che sentirò dire di te sarà che sei nei guai. Perché andare, Redmond? Disse anche mia moglie. Io sono felice qui finché tu sei gentile con me come lo sei ora. A Londra non possiamo fare la figura che dovremmo. Il poco denaro che otterrai sarà speso subito, come è sempre accaduto. Diventiamo un pastore e una pastorella, eh? Badiamo alle nostre greggi e viviamo contenti. E mi prese la mano e la baciò. Mentre mia madre diceva soltanto: sono convinta che dietro a tutto questo ci sia lei, questa maledetta intrigante. Dissi a mia moglie che era una stupida e dissi a mia madre di non inquietarsi. Non vedevo l'ora di andare e non accettavo obiezioni né dall'una né dall'altra. Il vero problema era come avrei trovato il denaro per il viaggio. Ma ci pensò la mia buona madre, sempre pronta ad aiutarmi nel bisogno. Tirò fuori da una calza 60 guinee. Era tutto il contante di cui poteva disporre Barry Lyndon di Castle Lyndon, l'uomo che aveva sposato un patrimonio di 20.000 sterline annue. Tale era stata la rovina prodotta su quella meravigliosa fortuna dalla mia prodigalità, devo ammetterlo, ma soprattutto dalla mia fiducia mal riposta e dalle ladrerie altrui. Naturalmente questa volta non partimmo in gran pompa, non facemmo sapere in giro che partivamo, e non ci furono bigliettini di congedo o visite d'addio ai vicini. Il famoso Mr. Barry Lyndon e la sua nobile consorte viaggiarono in una carrozza da nolo a 2 cavalli fino a Waterford, sotto il nome di Mr. e Mrs. Jones, e da lì si imbarcarono per Bristol, arrivando senza nessun incidente. Quando uno sta andando in malora, com'è facile e piacevole la strada! Il pensiero del denaro mi metteva di ottimo umore e mia moglie, con la testa appoggiata sulla mia spalla nella carrozza di posta che ci portava a Londra, disse che quello era il viaggio più felice che avesse fatto dal giorno del nostro matrimonio. Ci fermammo una notte a Reading e da lì mandai un biglietto al mio agente al Gray's Inn, dicendo che sarei stato da lui in giornata e pregandolo di procurarmi un alloggio e di affrettare i preparativi dell'affare. Milady e io decidemmo di comune accordo che dopo ce ne saremmo andati in Francia ad attendere tempi migliori, e quella sera, a cena, progettammo 1000 svaghi che ci saremmo concessi e 1000 nuovi espedienti per fare economia. Oh, donna, donna! Quando ricordo i sorrisi e le lusinghe di Lady Lyndon, come sembrava felice quella sera, che aria innocente e fiduciosa traspariva in tutti i suoi gesti e con che nomignoli affettuosi mi chiamava. Resto sbalordito di fronte agli abissi della sua ipocrisia. Chi può stupirsi se una persona credula come me rimase vittima di una truffatrice così consumata? Alle 3 del pomeriggio eravamo a Londra e la nostra carrozza ci portò al Gray's Inn con mezz'ora di anticipo sull'appuntamento. Trovai facilmente l'alloggio di Mr. Tapwell. Era buio e tetro, una vera tana. In Faust, l'ora che ci entrai, mentre salivamo per le scale di servizio, tutte sudice, illuminate da una lampada fioca e dal cielo scialbo di un malinconico pomeriggio londinese, mia moglie mi sembrò debole e agitata. «Redmond», disse quando giungemmo sulla porta, «non entrare. Sono sicura che c'è qualche pericolo. Siamo ancora in tempo. Torniamocene indietro, in Irlanda, dovunque». Si mise davanti alla porta in una delle sue pose teatrali e mi prese la mano. Ma io la tirai da parte. «Lady Lyndon», dissi, «siete una vecchia stupida». «Una vecchia stupida», ribatté lei, e si aggrappò al campanello. Venne subito ad aprire un signore dall'aria ammuffita, con una parrucca senza cipria, e lei esclamò: «Annunciate l'arrivo di Lady Lyndon!» Poi si avviò a grandi passi lungo il corridoio, borbottando: «Vecchia stupida!» Era stata la parola «vecchia» a farla impennare. Potevo affibbiarle tutti i nomi che volevo, ma quello no. Mr. Tapwell era nella sua stanza, circondato di scartoffie e scatole di latta. C'era un odore di chiuso. Lui si fece avanti e si inchinò. Pregò sua signoria di accomodarsi e a me indicò semplicemente una sedia e io presi posto, piuttosto meravigliato della sua insolenza. Poi infilò una porta laterale, dicendo che sarebbe tornato in un attimo. E tornò davvero un attimo dopo, portando con sé, indovinate chi? Un altro legale, 6 guardie in giubba rossa, armate di manganelli e pistole, e Milord George Poynings, con sua zia, Lady Jane Pecuer. Quando Lady Lyndon vide la sua vecchia fiamma, si gettò tra le sue braccia in uno slancio di passione isterica, lo chiamò suo salvatore, suo difensore, suo prode cavaliere, poi si voltò e mi rovesciò addosso un fiume di ingiurie che mi lasciò completamente sbalordito. «Vecchia e stupida come sono», disse, «ho messo nel sacco un mostro d'astuzia, un traditore come non ce n'è altri sotto il sole. Sì, sono stata una stupida a sposarvi, a rinunciare ad altri e ben più nobili cuori per amor vostro. Sì, sono stata una stupida a dimenticare il mio nome e il mio lignaggio per unirmi a un avventuriero di bassa nascita, una stupida a sopportare senza un lamento la più mostruosa tirannia che mai donna abbia patito, a lasciare che i miei beni venissero dilapidati, a vedere donne infami e volgari quanto voi. Per amor del cielo, calmatevi!» gridò l'avvocato a Lady Lyndon, ed un balzo si nascose dietro le guardie, avendo visto nei miei occhi uno sguardo minaccioso che a quel furfante non piaceva affatto. In effetti, sarei stato capace di farlo a pezzi se solo si fosse avvicinato. Intanto Milady continuava la sua sfuriata con grida sconnesse contro di me e soprattutto contro mia madre, che coprì di improperi degni di una pescivendola, e ogni frase iniziava e finiva con la parola «stupida». «Voi tralasciate qualcosa, Milady», dissi io con voce amara. «Io ho detto vecchia stupida. Non ho alcun dubbio che voi abbiate detto e fatto tutto ciò che può dire fare una canaglia», interloquì il piccolo Poynings. «Questa signora, adesso, è al sicuro sotto la protezione dei suoi parenti e della legge e non ha più da temere la vostra infame persecuzione». «Ma voi non siete al sicuro», urlai io, «e quanto è vero che sono un uomo d'onore e ho già assaggiato una volta il vostro sangue, ora lo avrò fino all'ultima goccia. Prendete nota delle sue parole, guardie. Procuratevi un mandato d'arresto, gridò l'avvocatino, ben nascosto, dietro i custodi dell'ordine. Non insozzerei mai la mia spada con il sangue di un farabutto del genere, esclamò Milord George, facendo conto sugli stessi valorosi protettori. Se questo mascalzone resta a Londra un giorno di più, verrà arrestato come un comune truffatore. E questa minaccia sì che mi fece trasalire. Sapevo bene che in città c'erano decine di mandati contro di me e che una volta finito in prigione non avevo speranza di uscirne più. «Dov'è l'uomo che mi arresterà?» gridai, sguainando la spada e addossandomi alla porta. «Che si faccia avanti questo delinquente? Voi, voi, vigliacco spaccone, venite avanti per primo, se avete l'animo di un vero uomo!» «Ma noi non vi arrestiamo mica!» disse l'avvocato, e mentre parlava, Lady Lyndon, la zia e una parte delle guardie uscivano dallo studio. «Caro signore, noi non abbiamo nessuna intenzione di arrestarvi!» Vi daremo una bella sommetta per lasciare il paese, purché lasciate in pace, Lady Lyndon. E il paese finalmente si libererà di una simile canaglia, disse Milord George, ritirandosi anche lui, per nulla dispiaciuto di andarsene dove non potevo mettergli le mani addosso. Quel cialtrone dell'avvocato lo seguì, lasciandomi padrone dell'appartamento, ma in compagnia di tre bruti della stazione di polizia, tutti armati fino ai denti. Io non ero più quello di quando avevo 20 anni. Allora mi sarei gettato all'attacco di quei farabutti spada alla mano e avrei dato il fatto suo almeno a uno di loro. Ma ormai ero avvilito. Ero stato intrappolato bene bene, sorpreso, giocato e vinto da quella donna. Ma si era intenerita quando sulla porta si fermò e mi chiese di ripartire. Non le rimaneva ancora un po' d'amore per me? Beh, ora che ci riflettevo, il suo comportamento sembrava mostrare che era così. Comunque, questa era proprio l'unica possibilità che mi rimaneva. E così, deposi la spada sulla scrivania dell'avvocato. Signori, dissi, non ricorrerò alla violenza. Potete dire a Mr. Tapwell che sono prontissimo a parlare con lui quando più gli torna comodo, e mi misi a sedere, incrociando le braccia, tranquillissimo. Massimo Popolizio ha letto Le memorie di Barry Lyndon, di William Thackeray, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, riduzione di Lorenzo Pavolini, il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.